English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa sera parliamo di clima. Avete sentito nei nostri giornali radio in questi giorni parlare del vertice che si sta svolgendo a Copenaghen in Danimarca proprio per parlare dei cambiamenti climatici. Le nazioni si stanno confrontando, gli uomini politici di tutte le nazioni si stanno confrontando e tra gli invitati non poteva mancare Al Gore, ex vicepresidente degli Stati Uniti ma anche premio Oscar per il suo documentario An Inconvenient Truth. Un documentario che parlava della verità scomoda dell'ambiente. Essendo lui appunto un paladino dell'ecologia, è stato invitato a parlare a Copenaghen e ascolteremo questa sera insieme alcuni brevi estratti del suo discorso. Ecco qua, Al Gore. The alternative to success here in Copenhagen is unacceptable. And to all those who are feeling all kinds of emotions at this stage in the negotiations, my plea to you is to realize what is at stake and reach a result that will give momentum to this process, make it a success, and set the stage for the completion of a binding international treaty next year. This historic gathering is being attended by leaders from almost every nation in the world. But there is one important part of humankind not present and not formally represented at these negotiations. Even though I have no credentials entitling me to speak for them, I would nevertheless like to advocate their interests. They are the generations that will follow us. Abbiamo sentito spesso nelle nostre puntate di English 24 un linguaggio colloquiale. In questo caso non è un linguaggio colloquiale perché ovviamente Al Gore aveva davanti a sé il testo del suo speech che parte con una verità che è destinata a colpire subito il pubblico. Sì, perché l'abbiamo chi più chi meno, insomma, l'abbiamo seguito questo vertice di Copenaghen e si scontrano talmente tanti interessi che c'è anche la possibilità che fallisca. E lui dice che l'alternativa al success di questo vertice è unacceptable, cioè non esiste un'alternativa in realtà, il vertice deve avere successo, speriamo che abbia ragione, speriamo che convinca, che la sua passion convinca i presenti, perché... Eh sì, perché lui fa appello sia alla ragione che alle emozioni che lui stesso poi prova. Noi lo vediamo, no? Abbiamo visto ricatti incrociati, soprattutto da parte dei paesi in via di sviluppo, che non accettano queste imposizioni dall'alto, quindi all kinds of emotions. Come tutti i grandi vertici, sì, si parla di problemi seri, c'è razionalità, ma ci sono anche emozioni. E allora lui chiede, my plea to you, plea è proprio to plea for something, è chiedere, ma chiedere in modo appassionato, convincente e anche commosso, potremmo dire, quasi una preghiera. Quindi la mia preghiera a voi. Ecco qual è la preghiera di Al Gore. È to realize what is at stake, cioè to realize, ormai lo usiamo un po' impropriamente anche in italiano, no? La traduzione letterale è rendersi conto, ma ormai anche noi a volte traduciamo, realizziamo, ecco, rendiamoci conto di che cosa è in gioco, to be at stake, che essere in gioco. Sappiamo per esempio, no, stake, in finanza gli stakeholders, tutti quelli che hanno un interesse, quindi ci sono tantissimi interessi in gioco, comprendiamolo fino in fondo e give momentum. Momentum è proprio una parola latina, quindi non è assolutamente momento, ma importanza, quindi dal latino, che poi è una parola che in realtà in italiano usiamo per esempio, credo, in fisica, per dire il momento di forza, il punto di forza. Tra l'altro un'altra immagine molto efficace che usa Al Gore è quella del fatto che lui parla in nome di persone che non gli hanno dato la parola perché... Lui dice, naturalmente Al Gore rappresenta, vabbè, tutti i suoi fan, tutti quelli che hanno visto il documentario, però lui dice ci sono anche delle persone che non sono presenti, not present, a part of humankind, una parte degli esseri umani, della popolazione della Terra che non sono qui, forse anche perché non sono neanche ancora nati. Infatti parliamo della generation that will follow us, le generazioni che verranno. Forse avrete notato anche tutte quelle affissioni dove i leader invecchiati artificialmente chiedono scusa alle generazioni perché appunto dicono quando potevamo non, e voi forse non eravate ancora nati, non abbiamo fatto niente. Molto efficace lo speech di Al Gore con queste immagini che lui crea, ma continuiamo a sentire il discorso di Copenaghen. They will not care very much about some of the disputes that are raging here in this conference. They will find it difficult to understand how some of these disputes could be allowed to interfere with the result that is essential for the survival of our civilization. We have 3 days to avoid a failure here. We cannot allow Copenhagen to become Doha. More is at stake than many seem to realize. Now that global civilization is interconnected on every continent as never before, we here must reclaim our ability to use the rule of law as an instrument of human redemption. Torna a parlare della futura generazione. Lui era rimasto su questo fatto che, insomma, ci sono delle persone che non sono presenti al vertice di Copenaghen, appunto la futura generazione. La generazione futura che guarda il vertice di Copenaghen cosa pensa? Sicuramente direbbe: questi sono un po' pazzi. E soprattutto, e qui c'è il verbo to care, che è un verbo bellissimo, versatilissimo, e lui dice: they will not care very much. To care very much è non gliene importerebbe molto, ma to care vuol dire anche importare. Ma vi ricordate il famoso slogan, mai capito giustamente perché non andava bene per l'Italia, usato da Veltroni tanti anni fa: I care, cioè mi importa. Ecco, in America ovviamente avrebbe molto senso. Quindi importare, avere a cuore. Però in questo caso guardano questi leader che queste disputes, raging, to rage vuol dire essere in atto anche in modo infuocato, quindi discussioni eccetera, le guardano e dicono: ma che cosa è davvero importante? Sai, sono queste le cose importanti, le modalità, i singoli interessi? No, queste non dovrebbero essere, could not be allowed to interfere con i veri, con le vere cose che sono at stake, come abbiamo detto prima. Could be allowed, cioè non dovrebbe essere loro permesso, to be allowed to, quindi anche qui una costruzione leggermente diversa che rispetto all'italiano. Allow vuol dire permettere, quindi viene usato al passivo, quindi I am allowed to interfere, mi è permesso interferire, oppure I am not allowed to interfere, non mi è permesso interferire con, appunto, quindi gli argomenti, le singole beghe tra paesi non dovrebbero centrare nulla con il grande obiettivo di survival of our civilization, la sopravvivenza del genere umano. A proposito di allow, can't allow Copenhagen to become Doha, cioè non ci possono essere gli stessi risultati. C'è lo Copenhagen spettro di Doha, che di Doha. I famosi Doha e Doha Round, cerchiamo di invece di uscire di qua con un success, no? Lui dice all'inizio, come ha detto all'inizio, non esiste un alternative al success, we have to succeed. E abbiamo 3 giorni per evitare il fallimento, il contrario del success. Quindi success, failure che poi vuol dire anche fallimento, come in italiano lo si può usare anche in senso economico, o anche per esempio una failure elettrica, ecco, quando il sistema elettrico si sgonfia, c'è anche in quel caso failure, quindi proprio l'opposto di success. Ma ascoltiamo un ultimo estratto dal discorso di Al Gore a Copenaghen. The future of our civilization is threatened as never before. We do have the means to secure that future. Today we dumped another 90 million tons of global warming pollution. More than 25 million of those tons were added to the ocean today, further increasing the acidity of the entire world ocean toward levels that could soon threaten everything that makes a shell or a reef, including the tiny zooplankton at the base of the ocean food chain. More than a billion people rely on fish as their principal source of protein. E qui abbiamo il primo degli esempi che Al Gore farà durante tutto il suo lungo discorso. Intanto parla del futuro minacciato come non è mai stato prima. Questa parola, quindi threat, che vuol dire minaccia, to threaten vuol dire minacciare, quindi to be threatened, essere minacciato. Quindi the future is threatened as never before. Al Gore non ha paura di spaventarci, diciamo così, l'ha fatto nel documentario, sicuramente chi l'ha visto, di Inconvenient Truth, però a un cerca sempre di essere propositivo, cioè dice we do have the means. Tu avrebbe anche potuto dire we have the means, abbiamo i mezzi. We do aggiunge quel do per rafforzare la sua affermazione, quindi abbiamo, rendiamoci conto che abbiamo i mezzi per secure the future, che vuol dire assicurarci un futuro, non rendere sicuro il futuro, che è un po' diverso. Tra l'altro poi appunto dicevamo il primo esempio è quello degli oceani. Gli oceani, lui ha queste statistiche che usa continuamente perché giustamente vuole dare sostanza a quello che dice con i numeri, e dice ogni giorno, quindi anche oggi, abbiamo aggiunto agli oceani tot tonnellate di rifiuti, di anidride carbonica, e quindi abbiamo further increased the acidity dell'oceano, e sappiamo che l'acidità dell'oceano che sta aumentando leggermente, uno dei gravi problemi, oltre naturalmente all'effetto serra, ha un effetto negativo su tutte le creature che vivono nell'oceano, e ricordiamoci sempre che 2/3 del nostro pianeta è fatto d'acqua, quindi abbiamo further e increase. To increase, aumentare, further increasing, sta aumentando ancora, perché questa acidità sta aumentando da mo. Però ogni giorno rendiamoci conto che passetto per passetto noi ogni giorno la aumentiamo ancora, further and further and further, sempre più in là. Torniamo ancora sul concetto della minaccia. La minaccia, quindi la minaccia generale, la minaccia per quanto riguarda l'oceano di tutto quello che c'è dentro. Quindi l'acidità threatens the zooplankton, ma anche qualsiasi shell, qualsiasi conchiglia, qualsiasi reef, qualsiasi barriera, quindi le famose barriere coralline, che hanno naturalmente, sappiamo, anche una valenza di protezione ambientale, antierosione, e tutta la ocean food chain, perché come sappiamo gli ecosistemi noi tendiamo a vederli a pezzettini, in realtà tocchiamo un pezzo dell'ecosistema e lo influenziamo completamente. Peraltro c'è qualcuno, e non sono poche persone, che basano la loro attività, la loro vita, il loro sostentamento proprio su questo. To rely on, essere dipendere da, quindi Al Gore ricorda che ci sono 1 billion people, 1 miliardo di persone che rely on fish, che fondano il loro modo di vivere, quindi fanno parte anche di una filiera economica sulla pesca. Basarsi, e reliable vuol dire anche affidabile, ricordiamo, anche di una persona, anche di un uomo, reliable man, un uomo affidabile. Non faremo ironia su quest'ultima affermazione di Giulia, perché è finito qui il nostro tempo radiofonico. A proposito di uomini affidabili, dobbiamo ringraziare Filippo Aureggi in regia. Ricordiamo anche l'appuntamento con il nostro English 24 in edicola. Da Marta Cagnola e Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata.